i problemi per la maggioranza. Questa sera Strauss-Kahn davanti al giudice a New York per chiedere la scarcerazione. Scontro internazionale intanto per il nuovo capo del Fondo Monetario. Flop d'ascolti per il programma di Sgarbi su Rai 1, subito sospeso. In Formula 1 la Ferrari prolunga il contratto di Alonso fino al 2016. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Iniziamo questa edizione del nostro giornale radio dalla politica, i problemi all'interno della maggioranza. Oggi l'incontro tra Bossi e Berlusconi. Allora, per fare il punto della situazione ci colleghiamo con Roma, Elisabetta Fiorito in diretta. Sì, un'ora di faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Umberto Bossi al termine del Consiglio dei Ministri e il primo vero colloquio tra il senatore e il Premier dopo la debacle delle amministrative. Il governo reggerà, spiega Bossi, ma bisogna fare delle scelte. Anche noi abbiamo fatto degli errori. La base della Lega è con me, ma ci si aspettano le riforme. Maroni non pensa al dopo Berlusconi, dice Bossi, e non accetterebbe di fare il Premier, né tantomeno Tremonti. Ovviamente gli occhi sono puntati su Milano e Bossi demonizza l'avversario. Non lasceremo Milano a Pisapia, un matto che vuole farne Zingaropoli. Se la verifica di maggioranza viene chiesta dal capo dello Stato Giorgio Napolitano la faremo, ma l'esecutivo è solido perché non ci sono alternative a questo governo. Poco prima del Consiglio dei Ministri Berlusconi ha rassicurato i suoi, con Bossi va tutto bene, la maggioranza è solida, ma bisogna evitare assenze ed incidenti in aula, spiega il Premier criticando quanto è avvenuto ieri a Montecitorio quando il governo è andato sotto per ben 5 volte. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, questo studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, e visto che, come abbiamo detto, le tensioni nascono soprattutto dal risultato del primo turno alle amministrative a Milano, noi ci spostiamo nel capoluogo lombardo, partiamo dal centro-sinistra. Giuliano Pisapia riparte dalle periferie, l'ultimo tratto di strada verso Palazzo Marino. Il candidato del centro-sinistra lo vuole correre partendo dalla cintura periferica della metropoli. È lì che il voto non lo ha premiato, è lì che gli oltre 3.000 volontari da ieri si sono dati appuntamento al Teatro Smeraldo, porteranno il suo programma sui temi della sicurezza, della legalità, dell'illuminazione delle strade, del decoro urbano. Del resto l'analisi attenta dei dati milanesi del primo turno della tornata elettorale parla chiaro. Pisapia è stato votato in prevalenza da donne, lavoratori autonomi, giovani dai 18 ai 24 anni. Alta scolarità dunque. Le fasce culturalmente più deboli hanno votato soprattutto Letizia Moratti, pensionati in primis. Pisapia avvia quindi una campagna incentrata sul consolidamento della sua base elettorale. Per i giovani c'è in ballo un maxi concerto il 27 maggio in Piazza Duomo, presentato da Claudio Bisio con la presenza certa di Jovanotti, oltre a molti big della musica italiana. Ma Pisapia si avvia in queste ore a definire l'allargamento della campagna elettorale ad alte fasce sociali, soprattutto quelle più deboli. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ecco come riparte la campagna elettorale milanese del centrodestra. Sfondo azzurro e simbolo del PDL. Il partito, in appoggio a Letizia Moratti, sceglie la via più classica per rilanciare la campagna elettorale. I nuovi poster sono apparsi da questa mattina per le vie di Milano. Niente rosso, come fece il contestato Lassini, niente volto della candidata. I nuovi cartelloni, commissionati dal gruppo Forza Silvio del deputato Antonio Palmieri, espongono invece in bella evidenza il simbolo del PDL. Un piccolo giallo che si spiegherebbe con i tanti malumori per come è stata condotta finora la campagna elettorale. Lo nasconde lo slogan. L'anticipazione pubblicata ieri sulla pagina Facebook di Silvio Berlusconi recitava: «Non lasciamo la nostra città in mano alla sinistra dei centri sociali». I cartelloni apparsi questa mattina recitano più pacatamente: «Forza Milano, non lasciamo la nostra città in mano alla sinistra». Scomparso ogni riferimento agli estremismi. Anche Letizia Moratti cambia strada. Sull'home page del sito a lei dedicato è comparsa un'intervista video. Una Moratti ben più pacata parla non dell'avversario ma della sua guida al comune. Intanto, a caccia di voti, il PDL milanese ha annunciato che batterà i quartieri palmo a palmo. Sono pronte squadre di parlamentari, consiglieri regionali e candidati di zona. Saranno loro, per il momento, si è scelto, a metterci la faccia. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto continua a creare problemi nella maggioranza l'iter parlamentare del disegno di legge sull'omofobia, contro la discriminazione e la violenza nei confronti degli omosessuali. Per fare il punto ci colleghiamo in diretta con Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Nuove difficoltà qui alla Camera per il disegno di legge contro l'omofobia. La Commissione Giustizia ha bocciato questa mattina anche l'ultima mediazione proposta dalla relatrice Paola Concia del PD, che a quel punto si è dimessa dal suo incarico. A votare contro il testo, come ieri, Popolo della Libertà, Lega, Responsabili, la quasi totalità dell'UDC. A favore si sono pronunciati PD, Italia dei Valori e Future Libertà. Il provvedimento lunedì andrà comunque in aula nella sua versione originaria, firmata addirittura 2 anni fa dall'allora capogruppo del PD Antonello Soro. Relatore è stato nominato Enrico Costa del PDL, ma quali le motivazioni della maggioranza nell'opporsi alla stesura fatta dalla Concia? Si lede il diritto di eguaglianza della nostra Costituzione, spiega il sottosegretario Giovanardi, in quanto mirante ad introdurre esclusivamente per omosessuali e transessuali un aggravante rispetto a delitti altrettanto odiosi e discriminanti che possono riguardare uomini e donne eterosessuali. Sono senza forze, replica dal PD la Concia, ho fatto l'ultimo sforzo di mediazione di apertura adeguando il testo alle normative europee. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, adesso cambiamo argomento, ci spostiamo negli Stati Uniti questa sera, poco dopo le 20 italiane, Dominique Strauss-Kahn tornerà davanti ad un giudice che dovrà decidere se rilasciarlo su cauzione. Strauss-Kahn ha dato nel frattempo le dimissioni dal Fondo Monetario Internazionale, quindi si apre la corsa per designare il nuovo direttore generale. Saluto Alessandro Merli, inviato del Sole 24 Ore. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina abbiamo letto alcune dichiarazioni. Brasile, Cina e altri paesi cosiddetti emergenti non vogliono un europeo al vertice del fondo. La Merkel invece poco fa ha detto che alla luce della crisi del debito dell'Eurozona il nuovo capo del fondo dovrebbe essere un europeo e chiede anche che si decida al più presto. Arriverà presto un nuovo direttore generale al Fondo Monetario di Washington? Credo che arriverà in tempi ragionevolmente brevi, e interesse di tutti avere una decisione diciamo nel giro di qualche settimana. Forse oggi stesso si riunirà il Consiglio Esecutivo del Fondo per prendere atto delle dimissioni di Strauss-Kahn e probabilmente anche per aprire la strada alle nominations, cioè alla scelta o alle indicazioni di candidati da parte di singoli paesi o di gruppi di paesi. Avete già accennato che c'è una spaccatura fra emergenti ed europei. Va ricordato che dal 1944, cioè da quando il fondo è stato fondato, la direzione è sempre andata a un europeo in base a un accordo non scritto con gli Stati Uniti, per cui agli americani andava invece la presidenza della Banca Mondiale. Naturalmente, dicono gli emergenti, l'economia mondiale non è più quella del 1944, vogliamo contare di più, cioè contiamo di più nell'economia mondiale, vogliamo contare di più anche nelle istituzioni internazionali, dopo più di 60 anni tocca a noi. Chiaro, anche alla luce del fatto che probabilmente alle Nazioni Unite rimarrà un asiatico, tu pensi che la chance di un europeo al fondo possa essere confermato oppure no? Io credo che se gli europei decidono in tempi brevi su un candidato unico, che sia un candidato forte, ci sono tutte le indicazioni che ci si stia orientando sul ministro francese Christine Lagarde, è possibile che anche questa volta gli europei ce la facciano, anche puntando sul fatto che in questo momento l'epicentro del lavoro del fondo è proprio la crisi del debito sovrano europeo. Non va dimenticato che tutta assieme l'Europa 27 ha circa il 30% dei voti all'interno del Fondo Monetario, un altro 17% l'hanno gli Stati Uniti, più qualche punto percentuale che va agli altri paesi industriali, Svizzera, Canada, Australia, eccetera. C'è già un 51% che è la maggioranza semplice che basta per eleggere il direttore del Fondo Monetario. Però di solito il Fondo Monetario decide per consenso, quindi è possibile che ci siano diversi candidati e poi alla fine di un negoziato nel quale magari vengono fatte concessioni agli emergenti per altre posizioni di vertice al Fondo Monetario, alla fine la spuntino gli europei. Però a differenza di occasioni passate, direi che è una partita ancora tutta da giocare. Grazie ad Alessandro Merli. A proposito del ministro francese dell'economia Lagarde, che tu citavi poco fa, c'è stata rilanciata una dichiarazione e ha detto che ogni candidatura al Fondo Monetario dovrà essere condivisa da tutti gli europei, quindi sicuramente un'altra prova per Bruxelles e tutti i paesi dell'Unione Europea. Cambiamo argomento. L'esercito siriano ha schierato in modo massiccio i suoi carri armati lungo il confine libanese nei pressi della località di Arida, teatro da giorni di una vasta operazione delle forze di sicurezza e dei militari contro una cittadina frontaliera, epicentro delle proteste anti-regime. Almeno 27 persone sono rimaste uccise e altre 79 ferite in una serie di attentati contro la polizia a Kirkuk, a nord di Baghdad, in Iraq. Due delle bombe sono state piazzate dentro ad automobili. Ricordiamo che ieri è stato arrestato il capo militare di Al-Qaeda in Iraq. E una notizia di poco fa ci informa che c'è stato un attentato dei talebani nell'est dell'Afghanistan. Si contano al momento 35 morti. L'amministrazione americana cambia politica intanto per il Medio Oriente. Il presidente Obama parlerà nel pomeriggio alle 16:40 in Italia, annunciando aiuti economici per i paesi che hanno avviato riforme democratiche. Quello che è accaduto negli ultimi mesi ha cambiato il corso della storia in molti paesi nordafricani e medio orientali, tanto da spingere Washington a mettere mano alla sua politica nel mondo arabo. Le rivoluzioni democratiche sono diventate centrali, questo dirà il presidente Obama nel suo discorso, un discorso che darà il via ad aiuti economici. $1 miliardo di debito cancellato per l'Egitto, per cominciare, e poi garanzie per tornare sul mercato. Le anticipazioni riguardano solo il Cairo, ma è noto che il programma comprende anche la Tunisia e tutti i paesi che si stanno muovendo sulla strada delle riforme. Gli Stati Uniti cambiano rotta e abbandonano il doppio standard, una politica che aveva evitato fino a ieri una dura condanna per la Siria. Da ieri, invece, per il presidente Assad e alcuni esponenti del governo siriano sono scattate le sanzioni finanziarie. La pace tra Israele e Palestina resta uno snodo cruciale, ma gli Stati Uniti prendono atto che in questo momento nessuna delle due parti è disposta a fare progressi significativi. Questo è invece il momento di capitalizzare i successi delle rivolte popolari. Resta l'ombra di Al-Qaeda, che nella notte ha diffuso l'ultimo messaggio postumo di Bin Laden. Lo sceicco esalta le rivoluzioni arabe e minaccia l'America. Non sarete mai sicuri fino a quando la Palestina non sarà libera. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seconda parte di GR24 alle 13:16. Ecco le notizie più importanti. Oggi c'è stato l'incontro Bossi-Berlusconi. Il senatore ha chiesto al Premier un nuovo progetto, ma in aula continuano i problemi per la maggioranza. Questa sera Strauss-Kahn tornerà davanti al giudice per chiedere la scarcerazione. Intanto è scontro internazionale per il nuovo capo del Fondo Monetario Internazionale. Ci sono stati decine di morti per molti attentati in Iraq e nelle ultime ore un grave attentato anche in Afghanistan con circa 35 persone uccise. Il flop di ascolti per il programma di Sgarbi su Rai 1 ha portato alla sospensione del programma. Infine la Formula 1, la Ferrari ha annunciato il prolungamento del contratto di Alonso per i prossimi 5 anni fino al 2016. Riprendiamo questa edizione di GR24, andiamo ad Imperia. Arrestato il presidente del tribunale, avrebbe fatto sconti di pena a esponenti della criminalità organizzata. Corruzione in atti giudiziari è l'accusa contestata, accusa per la quale Gianfranco Boccalatte risulta indagato da gennaio. Per la Procura di Torino, il presidente del Tribunale di Imperia non solo avrebbe alleggerito le misure di prevenzione adottate a carico di alcuni pregiudicati, ritenuti molto vicini alle cosche calabresi trapiantate in Riviera, ma sarebbe pure intervenuto nei contenziosi civili. Secondo l'accusa, cioè, per favorire amici e conoscenti, il magistrato avrebbe addomesticato sentenze in merito a successioni, fallimenti, aste giudiziarie e contenziosi relativi ad inadempienze contrattuali. Sono centinaia i fascicoli passati al setaccio dai PM della Procura di Torino e relativi a cause risalenti ad un periodo piuttosto lungo. Dall'alba il presidente del Tribunale di Imperia agli arresti domiciliari, contemporaneamente provvedimenti restrittivi, sono stati adottati nei confronti di due pregiudicati accusati di millantato credito. A gennaio era già finito in carcere l'autista di Boccalatte, Giuseppe Fasolo. Nelle scorse settimane il magistrato aveva presentato domanda di trasferimento al Tribunale di Firenze e dentro l'estate era attesa la decisione del CSM. Andrea Ferro, Radio 24 Sole 24 Ore, Genova. Una maxi frode nel settore orafo è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. 12 persone sono indagate anche per avere trasferito all'estero quasi 14,5 milioni di euro senza averli dichiarati al fisco. I finanzieri hanno individuato un giro di fatture false per quasi 500 milioni, un'evasione di oltre 200 milioni, di cui 40 di IVA, e circa una tonnellata d'oro che sarebbe stata venduta in nero. Le persone indagate sono riconducibili alla Balestra 1880, una società molto conosciuta nel settore. Ci spostiamo in Calabria per una maxi confisca decisa dal Tribunale di Reggio Calabria. Dopo il sequestro è arrivata la confisca di beni per un valore di 50 milioni di euro riconducibili a un imprenditore di Polistena nel Reggino che sarebbe legato all'Andrangheta. Si tratta di Salvatore Domenico Tassone, condannato in primo grado per associazione mafiosa e arrestato nel 2007 nell'ambito dell'operazione Arca che ha fatto luce su presunte infiltrazioni delle cosche di Piana di Gioia Tauro negli appalti e nei subappalti per la realizzazione della Salerno-Reggio Calabria. Nel 94 Tassone, mentre viaggiava in auto con il figlio, scampò un agguato in cui rimase ferito. A suo nome o intestati a prestanome e familiari c'erano aziende, terreni, auto di lusso e mezzi aziendali, oltre a conti correnti che secondo gli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia sarebbero stati acquistati con denaro proveniente da attività illecite. Da qui il sequestro nel 2007 e oggi la confisca. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che riguarda l'immigrazione: un barcone con 208 immigrati arrivato intorno alle 2 di questa notte a Lampedusa, vicino a Mazara del Vallo. In Sicilia sono stati soccorsi invece 14 immigrati. Ed ora parliamo del fisco italiano. Fari puntati sugli evasori fiscali, l'Agenzia delle Entrate accelera sui controlli rendendoli più mirati ed efficaci ma senza aumentarli di numero. Particolare attenzione sarà rivolta alle imprese che rappresentano 2.000 grandi contribuenti, puntando a verificare in anticipo le operazioni a rischio. Saranno vagliate ad esempio le posizioni che tradiscono una forte differenza tra tenore di vita e reddito dichiarato, fari accesi anche sul finto trasferimento all'estero della residenza fiscale e nel comparto agricolo su soggetti che dissimulano sotto forma di turismo vere e proprie imprese commerciali di ristorazione e alberghiere, ma in linea generale le ispezioni non si protrarranno più del necessario nei casi in cui vengano rilevate solo violazioni formali. Un occhio di riguardo infine per chi è in difficoltà e chiede di accedere alla rateizzazione e alle transazioni fiscali. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo convegno ha parlato il ministro dell'economia Giulio Tremonti poco fa e ha detto che bisogna porre un limite all'applicazione delle ganasce fiscali perché c'è un eccesso. E oggi a Piazza del Popolo a Roma le celebrazioni per il 159esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il ministro dell'Interno Maroni ha ricordato i successi conseguiti negli ultimi anni. Gli omicidi e le rapine sono diminuiti del 10%, le violenze sessuali del 9%, i delitti contro la persona sono diminuiti del 7%. Nel 2010 abbiamo investito molto sulla sicurezza stradale, uno dei settori in cui è particolarmente avvertita la preoccupazione per l'impatto in termini di perdita di vite umane, soprattutto fra i più giovani, per i drammatici costi sociali che ne derivano. Nel 2010 gli incidenti stradali sono diminuiti del 6% rispetto al 2009 e quelli mortali del 3%. Tante vite salvate in più. È stato incrementato il numero delle pattuglie impiegate nei controlli, che sono aumentati del 3%. 700.000 euro di risarcimento è la somma che la provincia di Pisa dovrà pagare ai parenti di un uomo deceduto in un incidente stradale causato dal ghiaccio. I giudici hanno infatti decretato che l'ente aveva omesso di spargere sale sul manto stradale ed è quindi responsabile per il sinistro. Un precedente che, se facesse scuola, potrebbe vedere gli enti imputati per le buche e la mancata manutenzione delle strade. Romolo Napolitano ha sentito il presidente dell'Associazione Familiari e Vittime della Strada, Giuseppa Cassonetti. Gli incidenti non avvengono solo per colpa del conducente, ma anche perché non ci sono le situazioni collaterali di sicurezza, per cui ci sono quelle con cause che fanno sì che l'incidente si verifichi. E quindi penso che sia una cosa buona, perché bisogna risvegliare l'attenzione delle istituzioni. Spesso gli enti locali lamentano di non avere soldi. Questo fatto di dire che non hanno i soldi può essere, come si dice, un motivo per declinare le loro responsabilità. No, debbono essere attenti per dire: vabbè, questa è la situazione e non abbiamo i soldi. Con questi soldi che abbiamo, cosa possiamo fare? Poi i soldi delle multe debbono essere utilizzati per gli interventi della sicurezza. Ma lei mi vuole dire che i comuni non hanno proventi da parte delle multe? Sono al momento stabili, con un lieve miglioramento le condizioni cliniche della bambina di 22 mesi lasciata in auto per 5 ore ieri sotto il sole dal padre a Teramo e ora ricoverata in ospedale. Ma come può accadere che un genitore si dimentichi del figlio? Sentiamo il commento dello psicoterapeuta dell'età evolutiva Alberto Pellai. Quello che si è verificato è un episodio dissociativo, cioè la mente non è là dove è l'azione, quindi noi ci troviamo a compiere gesti che non sono sintonizzati col pensiero che li dovrebbe gestire, guidare, indirizzare, e questo si verifica o in situazioni molto complesse come aver vissuto un trauma, oppure in situazioni in cui siamo molto affaticati e stressati, e questo è una cosa tipica per esempio dei neogenitori, cioè mamme e papà che sono uomini e donne che in un'agenda magari molto fitta devono aggiungere anche i compiti di cura e di responsabilità del proprio bambino. Credo che il mondo sia pieno di mamme e papà che faticano a tenere insieme tutti i pezzi della loro vita. La dissociazione è proprio la parcellizzazione, la disintegrazione di parti di noi che non riescono a stare più in un'unità, e questo è un episodio di cronaca che invece che generare condanna e giudizio oppure rabbia furibonda, così come viene raccontata la reazione della mamma, dovrebbe invece generare compassione e sostegno. Questo è un papà certamente addolorato e non è un papà maltrattante. La nuova trasmissione di Vittorio Sgarbi, andata in onda ieri sera su Rai 1, è stata già sospesa. La decisione è stata presa dalla direzione di Rai 1, considerati i dati di ascolto, che ha totalizzato uno share dell'8,2% con poco più di 2 milioni di telespettatori. Il risultato è nettamente al di sotto della media degli ascolti della rete per la prima serata. Parliamo di Formula 1, iniziano domani le prove libere sul circuito del Montmeló a Barcellona, dove domenica si corre il Gran Premio di Spagna. La vigilia della gara la Ferrari ha annunciato di aver rinnovato il contratto con Fernando Alonso fino al termine della stagione 2016. Quella del Cavallino sarà l'ultima squadra della mia carriera, scrive Alonso nel comunicato apparso sul sito internet del Cavallino. Abbiamo un'ultima notizia che arriva dallo spazio. Lo strumento che servirà per intercettare antimateria e trasportato dallo Space Shuttle è stato agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale al termine di una manovra durata quasi 5 ore. La grande macchina, pesante 7 tonnellate, costata 2 miliardi di dollari, è stata in parte costruita in Italia ed è pronta ora a inviare i dati al centro di controllo della missione a Houston. È tutto per questa edizione, curata e condotta da Enrico Paglierini, che assieme alla redazione vi auguro una buona giornata e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie anche a Pietro Lacorte in regia. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.